via via, se passi a volta, anche la 60 andrebbe bene, ma la 60 comincia già a essere un pochettino più critica la cosa, perché secondo me nel punto dove la piazzi si crea problemi e bisogna mettere il canale. Ma poi sai, erano inconvenienti anche su questa parte delle analogiche, perché ogni volta che altri tacchi, a me se me l'hanno riparato 3 volte quello ricevitore, me l'hanno riparato, si bruciava sempre, calzava e si bruciava. Infatti era una rottura, perché ogni volta che toglievo il motore bisognava, dopo magari riparava, rimemorizzarla sia su giù. Era un casotto nero, gatto. Mentre invece con questi da adesso non c'è bisogno, tutto automaticamente, perché prima invece era un rem su, gatto, per forza salire su con tutta l'attrezzatura, memorizzare prima la parabola e dopo, dopo il ricevitore, un casotto veramente. Poi l'ultimo mi ha fatto incazzare, ho detto io non ne voglio più, però dice prenditi questo, prova questo, almeno me lo va a regalare l'altro. Però era il digitale, allora era uscito il digitale, però ne vogliono. Per quella rottura che ho preso tante volte, non ho preso niente, ho lasciato la normale, va benissimo adesso. Fico 6 volte, una volta è venuto quel ragazzo che c'avevo ultimamente, però non c'ero riuscito, allora l'ha chiamato, è venuto lì, lui, Giorgio, e dice mi deve fare così, così, così, e non c'ero riuscito, però il ragazzo ancora era la prima acque, non ce l'ha fatta. Antonello, già ce l'ho qua. Io tieniti pronto, sono sotto casa tua, io muoviti. Ehi, sto scendendo. È un casino era con quei ricevitori, gli è costato specialmente, l'altro non li potevamo vedere qui con quei ricevitori, ho detto che vale tutto, poi la canzone, frequenza audio, frequenza video, un casino, vedi. A poco di poi ti veniva a girarti le balle perché ti volevano uno dai uno, due dai due, tre dai tre, quattro. Poi tutto il programma lo ci risavi un'ora e mezzo, uno due ore attaccato alla sedia, capito? Perché è un casino per quello, mamma mia, non me lo ricordare, mi ho passato un po' di costanza di ore per fare la memorizzazione, mi stavo già girando in cruce, meno male, poi quando mi diceva vai, non vado a nessun posto, no, vai a già ti ho detto, e ci mandava lui a impostare di costanza. Aspetta, scendo. E infatti, Marcello era prima, mentre adesso hai visto. Tutto automaticamente, e beh, digitale è tutta un'altra cosa, per va più bene. Ok, vai, aprire, vai. Maria. Nara, mi tutto. Nara, mi. Sto andando a prelevare a Antonello. Cos'è che dovete fare oggi? Dillo a me cosa dovete fare. Dobbiamo mettere l'antenna, hai capito? L'altra antenna, mi hanno regalato la Ringo, hai capito? Dobbiamo andare a vedere come piazzarla, hai capito? Ah, ho capito. Mi raccomando, piazzatela bene, almeno c'è problemi né niente, Antonio. Mi raccomando, fatto una cosa perfetta e almeno la fai una volta e basta. Sempre se si può fare, tutto lì, Giuseppe. Non devi stare adesso, oggi o domani, perfetto, fatela una volta, se si può fare, fatela bene e non ci pensi più. Ma se per me mi ascolti, Giovanni. Ah? Ho detto se mi ascolti sempre bene qua in zona. È un po' più basso, sì, adesso però io ti ascolto lo stesso, cioè ti sto rispondendo. Sono qua sotto casa di Antonello io. E io come ci arrivo? Mi arrivano 9:10 a Radio 5. È pulita, no? Va bene, meglio così. E me la Giuseppe, raccomando, fatto una cosa perfetta. Papa.